известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. In the matter of the impeachment of Governor Radai Blagojevich, the Senate of the 96th General Assembly... Eccolo la sentenza Blagojevic. ...as an impeachment tribunal, has sustained the article of impeachment... Therefore, Radar Blagojevich is removed from the office 59-0. Of the state of Illinois effective immediately. And further, he is disqualified from holding any future public office of this state. Approvata all'unanimità la mozione di impeachment nei confronti del governatore dello stato di Illinois, Rod Blagojevich, arrestato a dicembre, subito rilasciato, accusato di aver tentato di vendere il seggio del suo stato, quello lasciato vacante da Barack Obama, avviato alla Casa Bianca. Blagojevich viene, in base a questo impeachment, rimosso dal suo incarico, che passa, come previsto dalla Costituzione dello Stato dell'Illinois, al vice, che si chiama Patrick Quinn. Blagojevich, per la cronaca, è l'ottavo governatore nella storia americana a essere rimosso, a subire l'impeachment, il dodicesimo a finire in stato di accusa. Evidentemente quattro poi alla fine sono riusciti a restare sulla loro poltroncina. L'ultimo a subire la stessa sorte era stato Ivan Meacham dell'Arizona, anno 1988. Ci viene da chiamarla un po' la sindrome del doppio binario, no? Se ci si ragiona un attimo sopra, cioè è come se in questo momento ci fossero l'America buona e l'America cattiva che viaggiano insieme, viaggiano in parallelo, quasi con una equidistanza, tenendo le distanze, diciamo così. C'è l'America propositiva, l'America virtuosa, l'America dei buoni propositi, probabilmente dei buoni progetti e della ripartenza, del calcolo delle probabilità per riuscire a rimettere in sesto la barca, della nuova amministrazione, dell'aria nuova, della Washington ripulita, del tutti insieme ce la facciamo. E poi c'è la Washington cattivissima, quella che a cui abbiamo dedicato anche il forum di oggi, il nostro Express Yourself. Ne parliamo tra qualche minuto. Lo abbiamo intitolato I soldi degli altri ed è dedicato ai quattrini, ai bonus, no, dei mega super iper manager, che comunque vadano le cose, prima di tutto mettono la firmetta all'assegno intestato a loro stessi. E poi c'è l'America, appunto, ancora più viziosa, dei politici che pensano che bene o male qualcosa deve rimaner loro attaccato alle mani, no, che avere la chance di poter ridistribuire un seggio senatoriale non può essere mica soltanto una responsabilità da improntare al dovere etico, deve essere, insomma, come dire, un affare, un business. Del resto anche voi avete fatto osservazioni del genere riguardo alla storia di Blagojevich sul nostro sito. Avete scritto: è troppo sfrontato ma in fondo simpatico. E poi questo è un fil rouge che passa attraverso le vostre considerazioni sul marrano Blagojevich, che è talmente mostruoso e cinematografico, se me la passate, che alla fine tutti lo trovano in un certo senso così, come dire, se non altro a seguire. Silvia scrive: seguiamolo nel periodo buio. Gabriele dice: assomiglia a molti politici nostrani. Hermes dice: chissà dove lo ritroveremo quando la melma del fondale si sarà posata, che sembra un serial TV, scrive Luca. Sono tutte cose vere, del resto il personaggio è straordinario, a cominciare dal look. C'è gente che accetta scommesse sul fatto che quello sia un parrucchino, quel ciuffo formidabile, alla sua famosa, leggendaria chiacchiera. Pensate che in sede di ultima udizione ha parlato per 45 minuti ai 59 su 59 che avevano tutta l'intenzione di fargli calare la mannaia sul collo. Beh, lui non si è risparmiato l'idea per una 45 minuti di intrattenerli. Sentite. How can you throw a governor out of office who is clamoring and begging and pleading with you to give him a chance? Come potete cacciare via un governatore che vi sta implorando, chiedendo, si sta inginocchiando perché voi lo ascoltiate, sentiate le sue teorie? Let me show you that I'm innocent and I didn't do anything wrong. Aiutatemi a sentire, datemi l'ascolto e capirete che non ho fatto niente. Titanico, shakespeariano, forse un po' meno, non proprio shakespeariano, diciamo elisabettiano, via il personaggio di Blagojevich. Si è preso un calcio nel sedere, tra l'altro la sentenza dice che non potrà occupare né adesso né in futuro alcuna responsabilità pubblica, non potrà neanche insegnare in una scuola statale. Insomma, la sua carriera è alla frutta. Naturalmente c'è sempre la televisione. I love the people of Illinois today, now more than I ever did before. And the fight goes on. Just because I'm not governor anymore doesn't mean I'm not going to keep fighting for you and for the causes that I fought for my whole life. Secondo me in televisione ce la fa. Dice nella sua ultima conferenza improvvisata lì sui gradini della corte che lo ha appena giudicato, il Senato di Illinois, dice: amo questa terra come mai l'ho amata prima, la sento vicina al mio cuore, sono pronto a fare tutto ciò che è necessario per fare che cosa? Secondo me per trovare alla fine un posto in televisione. E secondo me, se soprattutto il ciuffo regge, Blagojevich questo lavoretto se lo vedrà offrire presto. E va detto che nessuno, anche nella sua ultima dichiarazione, non ha voluto portarsi dietro nessuno, non ha coinvolto soprattutto le due personalità politiche più importanti che poteva coinvolgere, no, nella sua caduta, ovvero Rahm Emanuel, il capo di gabinetto di Obama, e il leader dei democratici in Senato Harry Reid. Entrambi avrebbero avuto pressoché, insomma, certo, è confermato, contatti su Blagojevich riguardo a dare indicazioni all'eventuale successore di Barack Obama, ma lui non ha fatto nomi, è stato bello abbottonato. Come sapete, nel frattempo il seggio è stato ridistribuito, c'è un nuovo governatore, Blagojevich scompare, ma come dicono molti nostri ascoltatori, stiamo a vedere la fine che fa. SMS arrivano 349-238-6666. Simo si chiede se ha fatto anche la prova del guantino come O.J. Simpson, insomma, però la portata del personaggio mi sembra più o meno la stessa. Fabrizio osserva: tutto uguale come in Italia, ma da noi gli danno il premio. E invece Giacomo ci dà una notizia tristissima, la diamo su un bel disco, magari può darci un po' di conforto in più, che abbiamo già verificato e confermato, è morto Mike Francis. Ecco, arriva l'agenzia, Mike Francis, eroe musicale dell'Italia anni 80, insomma, survivor, mica niente. Francesco Puccioni, un ragazzo fiorentino a lungo residente a Roma, che ha questo nome d'arte all'americana e ha fatto quella musica che sembrava ancora più americana, è morto giovanissimo, 47 anni, un protagonista, un grande, una colonna sonora che ci ha accompagnato per un sacco di tempo, è un grande personaggio, anche un culto permanente che se ne va e magari però se non altro rinascerà, così per onorarlo. Express yourself. Mike Francis, invece questa è Express Yourself. Express Yourself è il nostro spazio bacheca interattivo, insomma, dove discutiamo insieme a voi, che è una delle cose che ci interessa fare nella edizione 2009 di Jefferson. Vi lanciamo dei ganci, delle idee, degli argomenti legati strettamente all'attualità, le cose che poi sono in circolo qua in trasmissione, e molti di voi, tanti, tantissimi, ci dicono cose molto tanto interessanti, noi le rimettiamo in circolo e così si va avanti, no? La circolazione delle idee forse è una cosa che va un po' aiutata in questi tempi, facciamo quello che si può. Vi abbiamo proposto una agenzia uscita stamattina, Obama ha detto che sono scandalosi i bonus per i manager di Wall Street, li ha definiti vergognosi, il culmine delle responsabilità che si siano dati 18,4 miliardi di dollari, spiccioli insomma, il 44% meno dell'anno precedente, ma il sesto ammontare distribuito nella storia, una cifra pazzesca. C'è un momento per fare profitti e distribuire bonus, ma non è questo, ha detto Obama, chi chiede aiuto dia prova di disciplina e si assuma le proprie responsabilità. Al riguardo vi abbiamo fatto parlare. Carlo dice: questi manager vanno cacciati a calci del deretano, partiamo leggeri, e possibilmente che caccino i soldi che si sono intascati arbitrariamente. Cristiano: certo che a volte i manager americani battono quelli nostrani, mi piace questo palleggio, questo specchiarsi negli orrori altrui in quanto a faccia di bronzo. Fabrizio dice: è imbarazzante, distribuiscono bonus ai super manager invece di coprire i buchi di bilancio o salvaguardare i posti di lavoro. Simone: ai politici non basta decidere il proprio stipendio, vogliono decidere anche quanto sia giusto pagare i manager. Voce fuori al coro. Dario: una generazione di manager cinici e sostanzialmente incapaci, i cattivi di cui parlavamo all'inizio, ma siamo proprio sicuri che è così diviso in buoni e cattivi questa America e questo mondo? Allevati con i miti dei predatori di borsa. Andrea: a mio avviso il vero scandalo non è l'entità del bonus o il momento in cui viene elargito, ma l'impressione che venga percepito da gente che di bonus non ha combinato nulla, anzi, molto carina questa. E se svariamo su un altro argomento? Eh sì, perché il fiume di messaggi, commenti, pareri sull'allergia ad Obama che abbiamo lanciato ieri prosegue. Io continuo a tenere d'occhio, insomma, questo scorrere di messaggi su Facebook. Tutto è partito da un messaggio cattivo, arrabbiato, di Emanuele, che dice: comincio a non sopportare più l'immagine quasi messianica che viene data ad Obama, e quindi su questo vi abbiamo chiesto un parere. Allora, c'è per esempio Giuseppe Graffiante che dice: penso che sia Obama a far venire l'allergia a politici stanti come quelli di casa nostra. Continua Stefano il palleggio tra casa nostra e certo, casa loro. Poi c'è Andrea che dice: la parola chiave è indubbiamente felicità di questi tempi di crisi economica, tutti sperano che Obama salvi il mondo, per ora lasciateci questo pensiero e questo sogno. Poi c'è Andrea che invece dice di condividere con Emanuele l'immagine messianica che viene data di Obama, però dice: non mi sembra di aver avuto l'impressione dai mezzi di comunicazione del fatto che tutto quello che fa Obama è perfetto, anzi ci sono delle critiche, e quindi insomma staremo a vedere. Sandro è ottimista, dice: credo che le elezioni di Obama costituiscono una boccata di ossigeno per l'America e per il mondo intero, e cita i primi interventi, le prime iniziative di Obama, brillanti dal suo punto di vista, l'intervista dall'Arabia, i provvedimenti riguardo Guantanamo, la riammissione, i finanziamenti sulle staminali, insomma dice che i fatti stanno lì a confermare che l'Obama presidente non è diverso dal candidato Obama. E torniamo alle ammonizioni invece di Obama su come vengono gestiti i soldi degli altri, su questi manager e i loro bonus. Però prima leggo, numerosi siete rimasti impressionati da questa storia della finestra. Breve cenno per chi non la sa, alla Casa Bianca a un certo punto Obama, neo inquilino, ha preso una finestra per una porta nel famoso giardino della Casa Bianca, ha cercato di imboccare una finestra, il suo predecessore era quello che forzava le porte sbarrate nei palazzi cinesi. Ci sono le foto, l'America ride, come dire, è sempre questione di maniglia. Cioè, ha dato una capocciata, che ha fatto? No? Eh no, quella era una finestra, non era una porta, non passi per la finestra. Sei presidente, secondo me. Puoi passare anche dalle finestre. Tu puoi anche dire cosa? Non posso passare per la finestra. Mi dà il suo nome, lei, scusi. Vediamo ancora, torniamo a parlare di bonus ai super manager. Matilde, come dare torto a Obama? Credo che durante un periodo di crisi come questo i manager in generale debbano rendersi conto che il loro compito è trovare le giuste soluzioni, non scialacquare gli aiuti finanziari, rendersi conto. Adlai, permettetevi un approccio marxiano, l'economia è struttura, la finanza è sovrastruttura, siccome i soldi facili, quel sistema di scommesse cui via via assomigliava sempre più a finanza, hanno fatto perdere di vista la differenza tra l'una e l'altra, struttura sovrastruttura, finché non troveremo il paradigma culturale che non si confonda con l'ideologia del Novecento, non ti vedo seguire quello che sto dicendo, perso il filo, ammetto. Tenendo alla larga le tentazioni messianiche, non faremo piazza pulita per ripartire. Obama non è un oracolo, conclude Adlai. Nome rispettabilissimo, appartiene a un grande politico americano. Roberto, lancia una provocazione citando un articolo che ho letto ieri. Non chiudiamo Guantanamo, mandiamo i CEO, gli amministratori delegati delle banche, mandiamoci. Fermiamoci qua per adesso, diamo qualche notizia. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. E allora noi continuiamo a seguire la presenza, peraltro molto chiacchierata e seguita anche dagli stessi giornali, di Wen Jiabao, il premier cinese che sta facendo un bel viaggetto per l'Europa. Io segnalo due assenze nel suo viaggio, cioè la Francia, quindi rimangono ancora le ruggini del boicottaggio di quest'estate con Sarkozy. Forse Carla Bruni potrebbe intercedere per riavvicinare la Francia alla Cina, e poi la nostra Italia che viene snobbata. La ridente Italia. Da Wen Jiabao. Wen Jiabao è stato a Davos, grande protagonista al Forum Economico Internazionale, è stato in Germania dove ha di fatto fatto pace con la Merkel, anche lì c'era stato l'incidente sul Dalai Lama, e oggi è a Bruxelles dove ha incontrato Barroso, che ammette di aver toccato argomenti delicatissimi con il premier cinese come i diritti umani e il Tibet, però dice che ormai siamo arrivati ad una relazione matura e profonda e quindi si può parlare anche di questo con Wen. Non mi risultano per ora dichiarazioni di Wen Jiabao su questi argomenti. Invece Wen Jiabao ha preferito ricordare gli ottimi rapporti con Prodi, perché dice l'ultima visita in Europa risale al 2004, quando Romano Prodi era presidente della Commissione Europea, e Wen Jiabao ha definito Prodi vecchio e buon amico del popolo cinese. Una gran vittoria per Prodi. Niente, concludiamo, ci fermiamo qua, semplicemente ricordandovi che è tempo di Super Bowl per i pochi, ma insomma, fidati, appassionati di football americano. Giocano Arizona Cardinals, debuttanti al Super Bowl, e Pittsburgh Steelers, veterani del Super Bowl, ne vincono come noccioline. Tampa, Florida, giocano domenica. Tampa, Florida, la location, a mezzanotte ora italiana, arriva naturalmente anche in televisione, e ci sarà... Anche il presidente Obama ha dato una sua preferenza. Prego, si sa già chi canta l'inno nazionale. Insomma, noi negli anni abbiamo seguito il Super Bowl Prince e lo manderemo sempre in versione diretta. Adesso indaghiamo su chi canta, ma Obama dice che tifa per gli Steelers, la sua seconda squadra dopo i Chicago Bears. Io non mi esporrei tanto. Si è sbilanciato. Vabbè, vediamo. Nothing, crying for nothing, whoa. But we won't let it go for nothing, no, not for nothing, the Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. Allora, aggiornamento Super Bowl, grazie alle vostre informazioni, indicazioni e quant'altro. Insomma, comunque, nell'intervallo della finale del campionato professionistico di football, domenica, inizia a mezzanotte, visibile anche in Italia, canta il boss. Bruce Springsteen presenta il suo nuovo disco, concertone con il boss, mentre invece prima, all'inizio, quando tutto lo stadio canterà l'inno a Tampa, i 70.000 presenti, l'inno verrà intonato da Jennifer Hudson, una cantante americana divenuta celebre di recente, un po' perché ha vinto la versione americana di American Idol, un po' perché è tra le interpreti di Dreamgirls, che è un film a sfondo musicale americano che ha avuto molto successo, un po' perché è stata invece protagonista involontaria di una tragedia familiare allorché la madre e il fratello sono stati trovati senza vita nella loro casa, il nipotino è stato rapito, insomma una tragedia che abbiamo seguito anche qua da Jefferson e che in un certo senso ha storicizzato, no, Jennifer Hudson come in questo senso come protagonista soprattutto di un terribile dramma, incancellabile dramma familiare. Comunque sarà lei a intonare l'inno americano prima della partita. Oggi ci occupiamo per Presidente 44 e le sue gesta, ci occupiamo dell'Obama Touch, no? Dell'Obama Touch su scala internazionale, il tocco di Obama, se è vero che basta una telefonata, insomma lui alza la cornetta, fa una telefonata a Medvedev e i rapporti improvvisamente Stati Uniti-Russia migliorano decisamente, al punto che è di oggi la notizia che il ministro degli esteri di Mosca, che si chiama Sergei Lavrov, in un commento pubblicato alla stampa britannica dice che la Russia ormai guarda con grande interesse all'inizio della presidenza Obama, anche se è troppo presto per avere opinioni consolidate, ma che non c'è dubbio che l'avvento della nuova amministrazione americana stia creando l'opportunità di un approccio assai più multilaterale per contribuire ad alleggerire tensioni e a superare i problemi. Insomma, si mette al bello, ma possibile che sia così facile? Noi vogliamo fare quattro chiacchiere con chi ne sa più di noi, nella fattispecie Angelo Antonio Rosato, è già stato nostro ospite, è un collaboratore di Limes, esperto di cose russe, a cominciare dalla questione energetica. Tra l'altro lo abbiamo rintracciato a Pittsburgh, in Pennsylvania, negli Stati Uniti, quindi anche lui sta compiendo la connessione. Buon mattino per te, Angelo Antonio. Grazie, buon mattino a voi. Cosa, se mi posso fare gli affari tuoi, cosa ti porta a Pittsburgh? Approfondimenti sui tuoi studi? Sì, ho vinto la borsa Fulbright di ricerca e sono qui come Fulbright Scholar presso l'Università di Pittsburgh e i centri che riguardano gli studi sulla Russia e sull'Unione Europea, proprio per approfondire i miei studi sulla sicurezza energetica, eccetera. E anche per il Super Bowl, naturalmente. Bene. La sera è molto calda, malgrado... Ti credo, sei a casa di una delle due squadre. Senti, sì. ma che cosa te ne sembra di quello che dicevamo nell'introduzione? Insomma, cos'è? Tocco magico o frasi giuste? Sono stati toccati i punti che i russi si aspettavano da parte di una nuova amministrazione? Com'è possibile che con un contatto insomma così circoscritto si abbiano reazioni così incoraggianti? Ma io credo che dobbiamo esaminare un po' freddamente la questione e non voglio fare l'avvocato del diavolo, ma mi sembra un pochino presto per tirare certo. Le conclusioni per i seguenti motivi. Primo, in fondo che cosa è successo? Semplicemente c'è stata una telefonata e ambedue hanno detto che i programmi per adesso sono fermi, ma questo vuol dire che anche domani potrebbero riprendere e comunque ci sono degli ostacoli tecnici in ambedue le parti che rendono questi programmi molto difficili. Io ricordo che gli scandali non esistono ancora. Mm-hmm. Per quanto riguarda i missili degli Stati Uniti, che gli Stati Uniti dovrebbero appunto deploy, dovrebbero mettere in Polonia, io ne parlai l'anno scorso proprio a Washington con un esperto di difesa che non posso citare, il quale mi disse ma in realtà questi missili non esistono, non sono mai stati provati e non sappiamo se funzionerà. La mia impressione, questa è solo la mia impressione, cioè non esistono i missili russi e non esiste ancora lo scudo, quindi è tutto virtuale, diciamo. Tutto virtuale. puntuale e soprattutto nessuna delle due parti ha in fondo veramente bisogno di questa cosa. Poi vorrei sottolineare il fatto che chi fa la politica estera, cioè non c'è solo Obama, ma c'è anche Hillary Clinton che è il segretario di Stato, certo. E chi fa la politica estera USA saranno tutti uomini del marito negli anni 90, tutti clintoniani, e voglio ricordare che sono stati clintoniani a iniziare l'espansione ad est della NATO, che è la cosa che veramente preoccupa, certo, i russi, certo, perché certo. I veri temi, quelli grossi che sono in ballo, non sono tanto questo scudo missilistico, che a me sembra più una promessa fatta un po' troppo alla leggera ai polacchi da parte dell'amministrazione Bush per ringraziarli dell'appoggio agli Stati Uniti su vari temi, ma i veri problemi sono il problema dell'Iran, delle ambizioni nucleari dell'Iran, l'espansione ad est della NATO, che è la cosa che veramente preoccupa i russi, quella della loro sindrome di accerchiamento, la necessità per la missione NATO in Afghanistan di ottenere e di avere delle vie di rifornimento attraverso la Russia, e il problema, soprattutto quello molto importante, della riduzione degli armamenti missilistici strategici nucleari. Voglio ricordare che lo START, cioè lo Strategic Arms Reduction Treaty, finirà, insomma, avrà la sua morte naturale a dicembre prossimo, non è ancora stato negoziato un nuovo trattato per la riduzione dei missili. Questi sono i temi grossi. Ecco, un altro tema che vorrei inserire nel quadro che ci stai tracciando, tra l'altro suggerito anche da un ascoltatore che si chiama Roberto, è una parolina di tre lettere, gas. Lui dice addirittura, secondo Gazprom, la crisi del gas sarebbe stata pilotata da oltreoceano, ma com'è? Anche qui si è girato pagina? Cos'è successo? Ma anche qua mi sembra che è presto per tirare conclusioni. In realtà queste crisi del gas sono diventate cicliche e non credo che la soluzione che è stata trovata è definitiva. È soltanto una temporanea tregua o armistizio, se vogliamo. C'è stato il fuoco, ma ogni anno la crisi rischia di ripresentarsi per il semplice fatto che uno, il contratto fra Ucraina e Russia è un contratto annuale, mentre in genere i contratti sono take or pay agreement di durata 25ennale, come quello dell'Italia, che è anche più esteso. E due, soprattutto perché dietro questo problema dei prezzi e dei debiti non pagati dell'Ucraina alla Russia ci sono dei problemi geopolitici molto più seri. La Russia non ha mai rinunciato all'Ucraina, che considera la culla della sua civiltà, dove è nata la civiltà russa, Kievska Rus. Dall'altra parte non può accettare l'inclusione dell'Ucraina nella NATO, e ha già dimostrato quest'estate dove sono le sue linee rosse, che è disposta persino a fare la guerra a Mosca, certo, certo. Pur di evitare appunto che la Georgia invada un piccolo territorio come l'Ossetia del Sud. Per cui anche sul gas io direi che siamo di fronte ad una tregua, ma non ad una soluzione. Qui oltreoceano le cose vengono viste, quello che succede con la Russia viene visto con molta preoccupazione, soprattutto per quanto riguarda il gas, si teme molto questa eccessiva dipendenza dell'Europa dal gas russo. Insomma, mi sembra di capire la tua indicazione, cogliendo anche l'aria che tira, è di mantenere un atteggiamento di grande prudenza. Magari qualche piccolo segnale c'è stato, ma siamo lontanissimi dall'aver imboccato quello che invece mediaticamente magari viene gonfiato, no? Sostenuto, rilanciato, perché tutto ciò che è nell'orbita di Obama in questo momento ha tutto questo. Ecco, ma ti voglio fare per concludere il domandone a $100 finale, insomma, ma in realtà, soprattutto in un osservatorio, in un think tank come quello all'interno del quale magari ti muovi tu in questo periodo, quanto ancora questo benedetto equilibrio, no, America-Russia viene considerato centrale, no, nell'ordine mondiale, non dico nuovo, insomma, nell'ordine mondiale, quando lo si va a analizzare freddamente, è ancora il vero ago della bilancia? Beh, no, effettivamente dagli Stati Uniti, da qui la Russia viene vista come un partner importante per quanto riguarda, ripeto, le ambizioni nucleari dell'Iran, l'assistenza alla missione NATO in Afghanistan e il problema appunto del controllo delle armi strategiche nucleari, la riduzione degli armamenti, ma solo su questo. Per il resto la Russia viene visto come un attore tra gli altri, ma non come la superpotenza degli anni della guerra fredda con cui avere a che fare. Se posso aggiungere velocemente una cosa, certo. È interessante vedere che per quanto riguarda l'espansione NATO ad est si sta creando una situazione di poliziotto cattivo, poliziotto buono, nel senso che anche qui in America ho la netta sensazione che si rendono conto che l'espansione della NATO verso la Georgia e l'Ucraina può solo portare guai. E però non c'è bisogno per l'America di recitare la parte del poliziotto cattivo, perché ci pensa l'Europa, nel senso che l'America può continuare a dire sì, noi vogliamo tanto l'inclusione di voi georgiani, di ucraini nella NATO, però purtroppo ci sono i cattivi europei che dicono di no. E questa è una situazione splendida per gli Stati Uniti, perché... Ma tu vedi veramente l'Europa in questa parte del poliziotto cattivo? Fa paura? No, ma diciamo che l'Europa, soprattutto per paesi come l'Italia, la Russia, eccetera, è un po' costretta a tenere questa posizione, certo, perché parliamoci chiaro, oggi l'Italia è forse il miglior alleato della Russia nel continente europeo, certo. E la Germania segue, e l'opposizione all'ingresso della Georgia e dell'Ucraina nella NATO, certo, sono venute da Italia e Germania. Certo. Va bene, ci fermiamo qua per motivi di tempo, ma è estremamente interessante sentire i tuoi pareri, ci risentiremo presto. Qui era Angelo Antonio Rosato, un collaboratore di Limes, esperto di cose russe, l'abbiamo contattato a Pittsburgh, dove appunto, come ci raccontava, no, 500.000 asciugamani gialli venduti per sostenere gli Steelers, la squadra di casa. Per fortuna anche in questo caso i soldi sono andati a buon fine, in beneficenza, quindi allora viva gli Steelers. E questo era Mike Francis, per ricordarlo. Survivor, don't close your eyes. Take advantage, sliding all the night. Hey, survivor, no matter who you are, time runs so far away. You must save your life. You know you can do it away, you know you can do it. You know you can do it away, you know you can do it. Hey, survivor. Dunque, è arrivata la smentita, erano usciti vari pettegolezzi, ce l'avete anche scritto attorno all'ipotesi di una Michelle Obama incinta, cioè la smentita, ma insomma, ci mancherebbe, come dire, povero Barack, ci mancherebbe pure quello, e povera Michelle anche, ci mancherebbe solo una gravidanza del primo anno di presidenza, dai. Invece, se volete davvero imboccare, no, quella bonaria strada verde dell'energia pulita, di cui il mondo molto discute, in certi casi anche si nutre, di questi tempi, dovete anche ragionare in base ai materiali, e per provare ad affrontare almeno un angolo di questo discorso abbiamo fatto quattro chiacchiere con Onorato Fiorentini, che è il presidente di Almeco, un'azienda che da 50 anni realizza superfici in alluminio per illuminazione, che tutto ciò poi alla fine, tanto per semplificare, si traduce non tanto in arredo urbano quanto fondamentalmente in pannelli, no? Pannelli solari, Philips, Siemens e grandi marchi del settore di questo fanno uso. I mercati sono quello americano e quello cinese, quelli principali. Gli abbiamo fatto alcune domande. La prima riguarda proprio il piano verde di Obama, che parla di 5.000 nuovi chilometri di rete elettrica, di messa a norma di 2 milioni di abitazioni, di risparmi di molti euro ogni anno, centinaia di euro ogni anno. E abbiamo chiesto, dal punto di vista dell'operatore sui materiali, come considera questo clima di esaltazione un po' collettiva, insomma, non ci si aspetta un po' troppo dalla svolta verde? Sicuramente sì, anche se devo dire che comunque gli Stati Uniti sono da sempre una nazione molto attenta al discorso del risparmio energetico. Ne faccio un esempio nell'illuminazione: le grandi catene della distribuzione come Walmart hanno iniziato da qualche anno una politica di sostituzione delle vecchie ottiche che utilizzavano per illuminare i loro supermercati, sostituendo la parabola riflettente e mettendo degli alluminio, come quello che noi realizziamo in questo momento in Germania, ad alta riflessione. Questo consente loro di guadagnare 10-15 punti come valore assoluto di riflessione totale e conseguentemente usare delle lampade che consumano meno energia. E sempre da queste prime informazioni, che cos'è che la convince di più? Che cosa la convince di meno? Il programma è molto, molto ampio, molto composito, perché si va dalle auto elettriche, si va appunto alla riorganizzazione di 2,5 milioni di abitazioni private, no? Che dovrebbero anche portare ad un risparmio consistente di, leggo, $350 l'anno per i proprietari. Poi ci sono nuove linee elettriche, 5.000 chilometri addirittura di nuove linee elettriche. Insomma, che cosa la convince di più, che cosa la convince meno e che cosa magari interessa più da vicino la sua azienda? Quello che mi convince di più è sicuramente la forte attenzione che c'è in questo momento da parte di tutti verso uno sviluppo e una ripresa di quello che è in questo momento l'industria e l'economia in generale. Quello che mi convince di meno è che appunto le aspettative su Obama e sulla sua politica sono talmente tante che bisognerà vedere che tipo di priorità Obama sceglierà di dare al suo governo, diciamo. Un altro aspetto importante di questa rivoluzione verde di Obama è che lui di fatto l'aggancia alla ripresa economica americana. Lui di fatto sostiene che per uscire dalla crisi si deve puntare sul verde e si possono creare milioni di posti di lavoro con la rivoluzione verde. Anche qui siamo sul piano di un realismo, seppur sognatore, proiettato al futuro, o siamo forse in un campo più utopistico? Sì, non saprei rispondere, nel senso che non ho gli elementi per fare un'analisi generale. Le posso dire che sicuramente nel campo che più mi è vicino, quindi illuminazione come energia solare, sicuramente si possono creare tantissimi posti di lavoro, questo sì. La Germania produce il 50% del solare termico in tutto il mondo, quindi puoi immaginare quanti stabilimenti e quanti posti di lavoro sono stati creati solo ed esclusivamente in questo settore. Stiamo sentendo la voce di un imprenditore che si muove sui mercati internazionali, Cina e Stati Uniti innanzitutto, materia prima è l'alluminio, che significa pannelli solari, in connessione con le nuove politiche di queste nazioni, a cominciare naturalmente dall'America di Obama. Adesso gli chiediamo una seconda questione per Onorato Fiorentini. I detrattori dell'impostazione economica di Obama dicono che la ripresa economica è incompatibile con una impostazione troppo assistenzialistica degli interventi. Sentiamo che cosa ne pensa appunto l'imprenditore, se è d'accordo o no. Oltre un certo limite sicuramente sì, dobbiamo fare in modo che le aziende al di là di un primo avvio, quindi di una sorta di aiuto iniziale, poi abbiano la struttura che sia in grado di, in un certo senso, di camminare da sola, perché non possiamo lavorare sempre pensando agli aiuti statali, dobbiamo strutturarci in modo tale da avere una start-up insieme con lo Stato, dopodiché dobbiamo essere in grado di andare avanti con le nostre gambe. È un periodo, l'abbiamo anche ricordato prima, in cui si parla molto di nazionalizzazione o comunque di intervento dello Stato in settori cruciali, peraltro dell'industria americana, ma anche qui in Europa e un po' in giro per il mondo. Insomma, leggiamo tutti i giorni di soccorso all'industria dell'auto, alle banche, alle compagnie aeree, all'Italia solo per fare un nome. Lei, di fronte a questi interventi dello Stato, proprio da imprenditore, che cosa prova? Insomma, non mi risultano aiuti all'industria dell'alluminio. No, infatti io sono assolutamente spiazzato quando sento che comunque si parla sempre di incentivi all'auto, in particolare incentivi appunto ai trasporti aerei. ci sono tutta una serie di altre aziende che lavorano così come appunto l'industria automobilistica, e se un certo tipo di politica deve essere attuata, dovrebbe essere una politica a ampio raggio che copra tutti i settori dell'industria, che non sia specificatamente concentrata solo in un mercato. Faccio sentire un po' oggi, anche perché poi per tre giorni fino a lunedì non la sentite, Vivian Su, la nostra leggendaria introvabile sigla qui a Jefferson. Il sottoscritto è Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia hanno lavorato a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Pietro La Corte. Vi ricordo la mail Jefferson2, scritto in numero, radio24.it. sul sito di Radio 24 c'è tra l'altro l'accesso diretto alla nostra mail. Soprattutto sono attivissimi, direi iperattivi, i nostri siti Facebook. Per parlare con noi, per parlare con la redazione, usate redazione Jefferson 2, oppure iscrivetevi alla bacheca che si chiama Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself per partecipare ai nostri quotidiani dibattiti. Verrete raggiunti da una mail quotidiana con il tema in discussione. Poi sul sito Radio 24 trovate tutto il resto, la replica la trovate a mezzanotte, e invece la diretta dovete aspettare fino a lunedì attorno alle 4 qui su Radio 24. Buon weekend. Yo, 一切都是假象，不是你们想象，无所谓真假，社会本来就是这样，天无会有怎样，别相信又怎样，仿佛骑着游戏的人就请靠边站，狗狗社区非常灵敏，可以闻到很多东西，却又色盲黑白分辨不清，观众也就跟着相信，最重要的是对得起自己不变的道理，高手过招戴着面具，显得活得更清醒，我回家去打坐取舍生涯性，沉默的人。